10:55 di questo martedì 28 aprile prosegue la mattinata informativa sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dopo l'informazione torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo di Torino. Quest'oggi sono da sola a tenervi compagnia fino alle 12:45 circa. Ne approfitto per mandare un saluto a Eddie, che quest'oggi non è qua a tenermi compagnia in studio, e vi ricordo anche i contatti per scrivere durante la trasmissione. Quindi per gli sms il numero di riferimento è 346-667-3263, mentre il numero del telefono fisso è 011-249-5669. Come sempre Radio Blackout la potete ascoltare oltre che sui 105.250 anche in streaming dal sito radioblackout.org, e per quanto riguarda Parole Ribelli potete trovare tutti i podcast della trasmissione sul blog qa-torino.blogspot.it. Prima di iniziare con la puntata vi lascio ancora a un po' di musica e poi iniziamo con gli approfondimenti. Who cutting bigger? Yeah, by a nigga. Who cutting bigger? Quando sono le 11 arrivano i primi saluti qua a Radio Blackout, quindi ne approfitto per ricambiare quelli della nostra fedele ascoltatrice Ilaria, ma soprattutto mando un saluto e un abbraccio a tutti i compagni e le compagne che la settimana scorsa sono stati raggiunti da misure cautelari per diversi episodi di lotta e mobilitazione qui a Torino e in Valle di Susa, quindi in particolare a Stella, Luca e Daniele che si trovano agli arresti domiciliari, ma anche a tutti quelli che sono stati spediti qua là in giro per l'Italia con obblighi di dimora, quindi a Silvestro, Diego, Francesco, Pablo e Costanza che è qua a Torino. Il prossimo pezzo lo dedico a loro, fratelli e sorelle di battaglie. Penso bene, manganelli, ricino, camicie nere, poi la guerra fratricida per i sogni di conquista. Voici le meilleur MC, le moins connu de France, le plus sensible et le plus souvent sous substance. Immortel penseur, le seul et l'unique, anarcho-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric. Mépris dans les veines, hautain et mutique, tu veux ma haine, check ma putain de musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés, stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections, je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement, la pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité, il y a ceux qui s'évadent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité, il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter. Et un, deux, trois, quatre, quando mi chiamano parte l'appello. Da solo accompagnato vengo da un fratello, mi precipito sul posto, parto dal porto, dall'aeroporto, zero stanco morto. La gloria non paga, si muore di fama, per la scuola e la strada, per lo studio si paga. Gente umilmente incontrata, per tutti i quartieri del mondo. Cosa dobbiamo dimostrare, tra il dire c'è il fare, tra prendere il dare. Basta un poco di rap per informare, un barbone te lo impara che è come lavorare. Dall'Italia alla Francia, pezzi da cacare, poco commerciale, rivolta popolare. Choisir entre la peste et le choléra, entre le taf, la merde et le peurat. Vie précaire au nom d'un idéal, que charbonner quotidiennement est considéré comme normal. Moi j'emmerde la norme, les idées préconçues, tu te dis déçu par la vie et les orgas. Les idées assènes comme un coup de massue, mais dis-moi, au fond qu'est-ce que t'as vécu? Un peu trop sec, impertinent, un peu direct, impénitent. Quotidien brutal, travail su, transpire, enrichit la masse salariale, bataille pue et délire. Ta récompense, une carte vitale. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère et à raison, déterminé à changer sa condition. Alors que les à l'unisson. Check, check, check, check ma putain. La lotta coi compari delle case popolari. Tratto collettivi, ma fratelli di battaglia. International connection. Rivolta popolare. L'immigré sort du buisson. Agressif, politisé, en colère. Fucking nation states. In the world. International connection. Sick of all these fences. Sick of all these gates. Going through customs with a loaded mixtape. Border crossing bullshit. Watching customs full of hate. Of another nationality. Who can relate? But some suckers fall for this shit. But true know the deal. Asshole in every state. But that's for real. No border, no mission. No deportation. Fucking nation states and the borders that they keeping. All that's for the rich and politicians, wishing they would just disappear. But it's gonna take more than just a kicking in your ear. But here's a spark, a start. We got sparkles for that fire. We harness our desire and take this shit further. Cause you can't go there, she can't go here, you can't go there. Why don't you disappear, evaporate into another state. We can hire you later when that's times right. When we need a splinter up in our labor fright, I say tear up the mats and delete the borders. Psychological disorder, hey, hey. Playing games with your mind, playing games with your life, making soldiers, here we go. Nationalism say it's a mental disease. It's eating away all our commonalities. I'm from everywhere, nowhere, and that's where I'll be from. I put on for my city and the city's world town. So fuck the nation states and the borders that they're keeping. All that shit's for some rich and politicians. Wishing it would all just disappear. But it's lunatic, rolling on, kicking in your ear. But it's a spark, a start, a spark the for that fire. We take the shit farther, hey. Non cugini d'Oltralpe, ma fratelli di battaglie. L'inedia ti tedia, rinnega l'invidia. La coscienza non si piega se è la rabbia che ti guida. La certezza fuori orario di un futuro libertario si scontra coi bisogni di un moderno proletario. Sin dal canto del gallo han provato a indottrinarlo, ma la vita e le esperienze lo hanno reso rinnegante dello stato governante, dello sbirro e del mandante. Lo ha sempre riverito innalzando il terzo dito. Preferisce la schiettezza più che acqua, birra fresca e la lotta coi compari delle case popolari. La lotta coi compari delle case popolari. Tra collettivi, ma fratelli di battaglia. International connessione, rivolta popolare. Immigré sort du puissant, agressif, politisé en colère. Fuck the nation states, in the border. International connessione. Allora 11.07, siete all'ascolto di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo a vedere gli argomenti di cui parleremo nella puntata di quest'oggi. Per quanto riguarda il contesto locale, continuerò ovviamente a dare aggiornamenti rispetto a quanto sta accadendo a Palazzo Nuovo ormai da un paio di settimane, con la chiusura in seguito a una serie di controlli che hanno rilevato la presenza di amianto. Ieri sono riprese le lezioni con gli studenti sparpagliati in varie sedi torinese dell'università, e non solo, ma sia ieri che negli ultimi giorni ci sono state diverse iniziative di mobilitazione da parte appunto degli studenti, che trovano quantomeno poco soddisfacente questa soluzione, dato che comunque i problemi restano ancora molti. Quindi andremo un po' a dare conto di quanto accaduto sia nella giornata di mercoledì sotto il rettorato, sia durante il flash mob di ieri sotto Palazzo Nuovo, e soprattutto di quali saranno le iniziative dei prossimi giorni e qual è lo stato dell'arte. Per quanto riguarda invece le altre città, andremo a dare qualche aggiornamento da Milano, dove questa mattina la polizia è entrata in azione nel quartiere del Giambellino con sgomberi e perquisizioni. Durante l'info è già stata fatta una diretta con i compagni e le compagne di Milano, ma la situazione è in divenire. Insomma, si stavano radunando molti solidali al mercato per decidere un po' il da farsi, quindi andremo a dare qualche aggiornamento, soprattutto in prospettiva della mobilitazione No Expo di venerdì. Sicuramente operazioni come quella di questa mattina sono segnali in quella direzione, del fatto che insomma c'è preoccupazione, c'è paura rispetto a questa mobilitazione, che si tenta appunto di colpire un po' i centri della mobilitazione. Quella di questa mattina al Giambellino era la base popolare che ospitava diverse compagne e compagni, ma appunto di tutto questo ci faremo dire meglio tra poco. Infine andremo a fare una diretta per continuare gli aggiornamenti sulla vicenda di Ayotzi Napa, dei 43 studenti normalistas che sono scomparsi dalla fine di settembre, una vicenda che abbiamo sempre seguito da questi microfoni. Nelle ultime settimane è partita una carovana internazionale di solidarietà appunto da Ayotzi Napa, che è arrivata in Europa e toccherà diverse città. Oggi è il turno di Milano, che sarà l'unica città italiana assieme a Roma appunto a incontrare questa carovana, quindi ci metteremo in contatto con un compagno che sta facendo da referente appunto per la tappa milanese, che ci racconterà un po' come è nata questa idea della carovana e anche un po' qual è la situazione

questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che non passa più, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che ti butta giù, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, va da nord a sud, questa è Radio Rabbia, se non ce la fai più, questa è Radio Rabbia, suonala anche tu. C'è più di un uomo che suda e stringe la fibbia, piange perché addosso c'è il peso di una famiglia, perde il peso che c'è addosso libra dopo libra, se i guai sono un colosso che non dribbla come Ibra, basta andare fuori ed osservare con acribia, nei cuori c'è più nero dei tesori di Gheddafi in Libia, leccati i baffi, questa paraffina è sopraffina, a metà se ti lecchi solo le dita, il calore sta in una relazione proibita, tra persone con diversa estrazione ma stessa vita, che aspettano una vita nata da una distrazione, di una notte di passione sulla sabbia infinita. La fede qua, in chiesa c'è chi crede, ma per carità, so di chi legge la Bibbia dentro le Bibbia. E la dignità ce l'ha chi c'ha cravatta, camicia, spesso c'ha pure la coca nella valigia. E sarà che dentro quelle risla metti troppi blocchi, e il viaggio che ti fai è al paese dei balocchi, che spacchi questi specchi per le allodole attestate, ma lo sporco si nasconde nei solchi delle vetrate. Questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che non passa più, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che ti butta giù, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, va da nord a sud, questa è Radio Rabbia, se non ce la fai più, questa è Radio Rabbia, suonala anche tu. Questa è Radio Rabbia, suona giù in Calabria, se hai la vita tra le dita ma ti sfugge come sabbia, non ci confonde chi nasconde tra i suoi simili i suoi crimini, dead in the middle of little Italy. Questa è Radio Rabbia contro ogni bandiera bianca, tra la gente che non parla io, né ladro né guardia, MC fanno gli anarchici senza un concetto chiaro, tutti rivoluzionari dopo la mia Stalingrado. Compare aspetta qua, la differenza è netta tra chi ce l'ha nel cuore e chi solo sulla maglietta. Ti dico è Radio Rabbia, quando la senti smettila, se hai trip da bipolfiero, ma gli amici con la celtica, non è Confucio ma filosofia di strada, se ogni disco che ho venduto fa un sasso per l'intifada. Parlo di musica, ma la mia gente è stanca e la musica si cambia, ora suona Radio Rabbia. Questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che non passa più, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che ti butta giù, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, va da nord a sud, questa è Radio Rabbia, se non ce la fai più, questa è Radio Rabbia, suonala anche tu. Ci sono donne che rubano in una metro, poi ci sono donne che rubano in Parlamento, la differenza credi che stia nell'abbigliamento, ma le seconde c'hanno fino al quinto appartamento, le prime senza la luce e il riscaldamento, soffrono lo sfruttamento in strade di provincia, coi tacchi alti la morte viene a prenderle, nemmeno maggiorenni è già strafatte di eroina, l'amore è un contratto, può durare una vita, da passare sotto un tetto a darsi affetto ma per finta, per fingere una vita qui fornire educazione, regalando l'illusione che la felicità esista, e la verità di Emilio Fede nei suoi TG Varietà, e il credo per i nemici della notizia è la povertà, ora puoi trovarla anche in banca, che firma finanziarie per comprarsi una pelliccia, e sarà che forse è meglio avere i paraocchi e prendere da bere fino a diventare sbronzi, gli stronzi fanno leggi per scappare dalla gabbia, gli struzzi stanno in pace con la testa nella sabbia, e questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che non passa più, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, che ti butta giù, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia, va da nord a sud, questa è Radio Rabbia, se non ce la fai più, questa è Radio Rabbia, suonala anche tu. Tu muovi odio, io invece l'opposto. Con chi ce l'hai, per me tutto a posto. They come around but they never come close to. They come around but they never come close to. They come around but they never come close to. They come around. Allora, tra pochissimo saremo in diretta con Andrea Cegna, un compagno che è stato alcuni mesi in Messico, ha seguito la vicenda di Ayotzinapa, che tra poco appunto ci racconterà della tappa milanese di oggi, della carovana solidale, insomma, di quali sono gli appuntamenti per chi si trova a Milano, e ovviamente anche darci un po' conto di qual è la situazione attuale ad Ayotzinapa, ma non solo. La parte sbagliata del micro, in 27 anni di vita, ho visto gente tagliarsi la testa come l'idra e ricrescere ancora peggio, quelle buone puoi contarle sulle dita, io ci palleggio fra chi cambia maglie più di Ibra, si fa fatica ma non è così complesso, l'equilibrio infame è più vecchio dell'universo, il benessere di qualcuno è il malessere di riflesso, di chi non ha la forza per invertire il processo. Tu vedi un dio, io ci vedo un mostro, tu muovi odio, io invece l'opposto, con chi ce l'hai, per me tutto è opposto. They come around but they never come close to, they come around but they never come close to, they come around but they never come close to, they come around but they never come close to, but they never come close to. Non conto le volte in cui sono stato tentato, stressato in mezzo al traffico per poco sbroccato, l'ho solo pensato, qualcuno lo avrei seccato, poi a un tratto flashato, freddato, il sangue come acciaio temprato, pensieri veritieri che strangolo, nemici che scompaiono appena girato l'angolo, fra gente che trasegola la foto ogni sua molecola, si pippa la famiglia e si scusa mentre gesticola, chi per la strada mi vede poi cambia marciapiede, sei lontano e non ricordo perché non ci salutiamo, e vuoi che metta lo scorsoio al mio orgoglio che ti lascia il podio, però il rancore non lo incoglio, forse non me lo spiego, ognuno ha il suo medioevo, forse dietro al nemico si nasconde il nostro ego, o forse tutto scritto già nell'universo in mezzo agli astri, che siamo solo gli universo, gli altri. Tu vedi un dio, io ci vedo un mostro, tu muovi odio, io invece l'opposto, con chi ce l'hai, per me tutto a posto. They come around but they never come close to, they come around but they never come close to, they come around but they never come close to, they come around but they never come close to, but they never come close to. Un uomo senza nemici, un uomo che parla poco, stupido gioco, mi dà l'altezza d'uomo, prende il fuoco, fa una soggettiva al tipo, tipo GoPro, la sua vita è un videogioco, fai la foto, faccio triplo dopo, con chi ce l'hai, soliti ignoti che chiami merda, o forse il tuo vicino all'erba e non te la vende, un nemico non si vende, un nemico è per sempre, un nemico del cuore, nel momento peggiore è sempre presente. Il migliore non sente ragioni, non ti chiama homie, si sciacqua la bocca e sputa i nomi, alzo i toni, la fama mette pressione, ti impressioni, perché più ti esponi, più ti rompono i coglioni, presunzione zero, onesto perché sincero, conosce il tuo nemico, non vuole farti pagare in nero, tu chiedi Dio, io ti chiedo il costo, scegli me come nemico, faccio uscire un mostro. Tu vedi un Dio, io ci vedo un mostro, tu muovi odio, io invece l'opposto, con chi ce l'hai, per me tutto a posto. They come around but they never come close to, tu vedi un Dio, io ci vedo un mostro. They come around but they never come close to, oggi fratelli domani non ti conosco. They come around but they never come close to, con chi ce l'hai, per me tutto a posto. They come around but they never come close to, they come around but they never come close to. Ostis Grama, Lord Bean, Ens, S-A-L-M-O, Le Bon, Night Skinny, Bra. Para cacho en eso, un pocho, here we go. Soy rebelde, soy rebelde. Rebel Díaz. Soy rebelde. Ya, ya, ya. Saying they not trying, we survivors despite the odds that against the 11:25, torniamo in diretta con Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come annunciato pochi minuti fa, iniziamo con il primo approfondimento per la puntata di quest'oggi. Siamo in collegamento con Andrea Cegna. Ciao Andrea, mi senti? Sì, ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Ecco, un saluto a te, benvenuto su queste frequenze. Con te vorremmo appunto un po' presentare questo progetto della carovana per Ayotzinapa, che è partita nelle scorse settimane dal Messico e che toccherà, sta toccando diverse città europee, per portare un po' appunto in giro la storia di Ayotzinapa, degli studenti normalistas che sono scomparsi dalla fine di settembre. Un episodio appunto di cui abbiamo più volte parlato e che ha dato il via, insomma, a una mobilitazione che ha superato di gran lunga i confini di Ayotzinapa, ha coinvolto tutto il Messico anche con diverse giornate internazionali di mobilitazione. Oggi appunto la carovana farà tappa a Milano. Ti chiederei innanzitutto un po' di raccontarci come è nato questo progetto, poi ovviamente anche di insomma illustrare per chi si trova a Milano quali sono i vari appuntamenti della giornata di oggi. Allora, l'idea nasce da alcune questioni, ovvero la prima è che dopo quello che è accaduto agli studenti della scuola normale rurale di Ayotzinapa si è generato in Messico e nel mondo un forte e importante movimento di solidarietà nei loro confronti, e questo è un qualcosa che ha portato a far sì che a Milano, a Roma, a Torino, in tante altre città d'Italia in questi 7 mesi ci sono stati presidi ed iniziative. Dall'altra, che cosa è successo? È successo che durante il primo festival mondiale delle resistenze e ribellioni contro il capitalismo, organizzato dalle ZLN tra dicembre e gennaio in Messico, i normalisti, una delegazione di genitori e studenti, compagni dei 43 desaparecidos, ha partecipato a questo festival e lì c'è stato un primo contatto diretto con la società civile internazionale, che fino già anche a dicembre e poi dopo ha supportato questa lotta per la presentazione in vita, la riapparizione in vita dei 43. Lì che cosa è successo? È successo che c'è stato un incontro dove si è deciso comunemente, si è ragionato assieme sull'importanza, la necessità e l'utilità di organizzare una sorta di tour europeo di studenti e genitori di Ayotzinapa per due fondamentalmente. Il primo, quello di raccontare questa importante storia anche a chi non aveva la possibilità, chi non ha avuto la possibilità di essere direttamente in Messico, quindi un contatto e un rapporto diretto con questa storia. Dall'altro, creare e generare una rete di relazioni e di rapporti che sappia andare oltre la semplice mera solidarietà, anche se molto importante sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista anche diciamo nominale con le iniziative, ma una vera e propria rete di relazioni capace di portare una solidarietà attiva nelle lotte di tutti i giorni, in quanto anche con una breve chiacchierata fatta ieri con tanti soggetti dei media liberi e indipendenti, loro ci tenevano a precisare che il nemico vero è uno solo ed è comune, ed è il capitalismo. Certo, senti, appunto oggi questa carovana arriverà a Milano, che sarà l'unica città italiana assieme a Roma a essere appunto toccata da una tappa della carovana. Com'è il programma, appunto quali sono gli appuntamenti previsti? Allora, intanto per precisare, sì, sono le uniche due tappe, c'è un motivo specifico anche perché sono le uniche due tappe, perché sono le due città dove ci sono delle rappresentanze istituzionali messicane. In quanto, se sicuramente questa carovana nasce dall'esigenza di tenere in relazione, creare una relazione tra i soggetti dal basso, tra soggetti in lotta dal basso, dall'altra gli Ayotzinapis ci tenevano a dire che però è anche chiaro che questa iniziativa serve per mettere pressione anche su chi in qualche maniera ancora è, anche se è subordinato alle volontà economiche e del capitale, elemento capace di prendere decisioni, ovvero il governo messicano, perché è stato chiaramente il governo e lo Stato messicano, attraverso i suoi corpi sbirreschi, a fare l'attacco agli F-43. Oggi cosa succederà? Succederà che alle 15, l'abbiamo spostato di un'ora, causa sciopero dei mezzi, che è totale, fortunatamente applaudiamo alla lotta dell'APM che oggi sta paralizzando Milano per chiedere i diritti per il rinnovo del proprio contratto. Fino alle 15 c'è questo sciopero che sta paralizzando Milano, ed essendo in pieno centro il consolato messicano, il presidio dalle 14 è stato portato alle 15, e quindi dalle 15 un presidio sotto il consolato messicano, e poi a seguire ci si sposterà a partigiani in ogni quartiere, questa iniziativa che da 8 anni porta i nuovi semi di resistenza nella sera del 25 aprile a Milano. Quest'anno, per il 70esimo, invece che fare solo il 25 aprile, si è deciso di fare questa iniziativa per 4 giornate. Si chiuderà quindi questa specie di festival delle culture antifasciste con un incontro pubblico in cui la società civile italiana, quindi non, cioè milanese del nord, quindi non solamente i gruppi organizzati di compagni, avranno l'opportunità di incontrare e ascoltare le parole della delegazione di Aiuti Napa. Bene, senti, tu menzionavi giustamente l'importanza di portare la storia di Ayotzinapa oltre i confini messicani, insomma di sviluppare forme di solidarietà internazionale. C'è da dire però che questa vicenda è arrivata fino a noi, perché ha avuto sicuramente uno sviluppo di mobilitazione molto determinato che non abbiamo visto in altri casi. Insomma, quello che è successo ad Ayotzinapa è stato particolarmente eclatante, ma forme di violenza di questo tipo sono un po' all'ordine del giorno in Messico, è appunto quello che abbiamo visto svilupparsi da settembre in poi in diverse città messicane, è stato sicuramente qualcosa di straordinario. All'oggi qual è la situazione? Insomma, vediamo che continuamente ci sono giornate di azione. Solo pochi giorni fa leggevo che c'è stata una nuova forma di una sorta di assalto al Parlamento di Chilpacingo, proprio da parte dei compagni di questi studenti, da parte degli insegnanti in lotta. Quindi a mesi di distanza la situazione sembra ancora decisamente in divenire, ben lontana dall'essersi sopita. Ma hai voglia di darci, insomma, siccome hai trascorso alcuni mesi in Messico, qualche aggiornamento sulla situazione? Allora, certo, la prima cosa che mi viene da dire è questa: in Messico, parlando con tante compagne e tanti compagni, ci veniva detta una cosa molto chiara a dicembre-gennaio: non si vedeva un movimento popolare e sociale così tanto forte dall'esplosione e dalla nascita delle ZTL nel 1994. Mai in questi anni, neanche il movimento degli studenti del 1999, è stato così forte e così capillare. E questa è una questione. L'altra questione è che è questa: in Messico si parla in meno di 9 anni di almeno 125.000 desaparecidos, però il caso di Ayotzinapa è stato un caso unico, sia perché è stato colpito in maniera molto importante, 43 persone scomparse e 6 morti, un gruppo organizzato, perché la matrice storica delle scuole normali rurali è una storia di studenti in lotta, studenti in movimento, quindi un gruppo organizzato che ha avuto la capacità anche di portare immediatamente alla luce quello che è accaduto. Dall'altro è stata fatta praticamente in pieno pubblico, cioè all'interno di una città. Uno dei morti, per esempio, non è neanche uno studente della scuola normale rurale, ma un giocatore di una squadra di calcio, perché la polizia, nella follia repressiva, ha fermato un pullman che gli sembrava uno dei normalisti e ha sparato sul pullman della squadra di calcio, dove è morto un quindicenne. Questo ha portato alla luce, ai nodi, tutta una insicurezza sociale nei confronti delle istituzioni messicane, e bisogna andare un attimino indietro per capire questa cosa e tornare anche, per esempio, alle elezioni di Enrique Peña Nieto, l'attuale presidente della Repubblica Messicana, presidente che chiaramente è stato eletto con una frode elettorale, e tant'è che già nei primi mesi della sua elezione, anche durante la campagna elettorale, ci fu quella famosa campagna studentesca, Io Soy 132, che metteva in discussione tutta la modalità con cui Peña Nieto è stato eletto. Quindi la somma di tutte queste cose ha generato questo forte movimento che non è solamente di Ayotzinapa, che non è solamente i normalisti, ma è proprio un movimento ampio che coinvolge diverse fette della popolazione messicana, che vanno dalle ZLN stesse, ai sostenitori delle ZLN, arrivando fino appunto al Guerrero, che quindi mettono in discussione non solo un'intera classe dirigente e istituzionale, quella della politica messicana, ma in generale mettono proprio in discussione un sistema di potere basato sulla corruzione, sul rapporto con il narcotraffico, basato sulle speculazioni e il guadagno individuale e non sul bene collettivo. Quindi è un movimento grosso e importante, di cui gli studenti di Ayotzinapa si sono messi un po', diciamo, anche come responsabili della creazione di questo movimento, e per loro questo viaggio europeo è anche un modo per continuare la mission che hanno iniziato in Messico. Beh, certo, mi ricollego proprio a una delle cose che dicevi, quindi a questo rinnovato senso di sfiducia verso le istituzioni che sono state appunto indicate come responsabili di questa vicenda. Una delle forme di mobilitazione che è stata lanciata dalle famiglie degli studenti e dai compagni è stata quella del boicottaggio delle ormai imminenti elezioni parlamentari ed amministrative che ci saranno a inizio giugno. Qual è la percezione rispetto appunto a questa scadenza elettorale? Beh, loro dicono che addirittura non le vorrebbero proprio, cioè non vorrebbero che proprio non si svolgessero, nel senso faranno di tutto per non farlo svolgere, perché non è il cambio di un nome a cambiare la situazione, ma dicono proprio viviamo in un paese dove 8 politici su 10 vengono eletti con i voti del narcotraffico, quindi è proprio il sistema che va cambiato. Quindi una delle atti della loro lotta è proprio quella di riuscire a non far svolgere le elezioni nel Guerrero, nella tornata elettorale del 7 di giugno, mi sembra che la data sia proprio quella, e questo è uno dei loro obiettivi, che è un obiettivo per dire proprio che questo tipo di istituzioni non vanno più bene e vanno cambiate, non è questione di nomi ma proprio di gioco, di tavolo, e quindi su questo loro hanno una barra molto dritta e su questo continuano a dire che il loro obiettivo è questo. Va bene Andrea, io ti ringrazio, sicuramente rispetto alla vicenda in generale continueremo a dare aggiornamenti da questi microfoni, per ora io ricordo appunto e rilancio gli appuntamenti che hai dato per la giornata di quest'oggi e quelli che ci saranno poi domani durante la tappa romana, quindi insomma per chi si trova nei paraggi l'invito è sicuramente quello di partecipare. Io ti ringrazio e a risentirci presto. A presto, un ringraziamento a te, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao. Allora, insomma, questo un aggiornamento corposo molto interessante sulla vicenda di Ayotzinapa, che appunto in questi mesi abbiamo seguito con continuità, insomma, nonostante le difficoltà di distanza da quegli avvenimenti che però sicuramente ci riguardano e appunto sono una testimonianza molto potente di un movimento popolare che in Messico non si vedeva da tempo, come Andrea ci raccontava poco fa. Appunto per gli appuntamenti italiani della carovana li potete reperire facilmente in radio. Per quel che riguarda la giornata di oggi a Milano, fate riferimento alla pagina Yabasta Milano, mentre per domani l'appuntamento sarà seguito dai compagni di Sapienza Clandestina, quindi insomma trovate facilmente tutti gli appuntamenti per incontrare questa carovana, che sicuramente darà una testimonianza preziosa sulla situazione messicana. Direi che adesso possiamo fare una pausa musicale, poi torniamo in diretta con altri approfondimenti, ci spostiamo a Milano per qualche aggiornamento. Ah, ragazzi, non sono un po' io soy rebelde. Rebeldías. Yo soy rebelde. Ya, ya, ya. Soy rebelde porque no me then end in compliance. Not relying on the science, not blaming the victims, saying they not trying. We survivors, despite the odds stacked against our fathers. Mothers losing their jobs and they wanna kill us, or it costs for all of us. That's why I say fuck the law. They wrong, because if you gon' protect the 1%, you ain't serving the interests of the rest. I get it, we supposed to put down the heads, follow they set of rules, listen to school, listen to balls. If not, you out of a job, out of line. The assembly gotta continue, they gon' leave you behind. Under the water, submerged under the cost of high mortgage and loans for college scholars. Threaten the white collar, black and brown, big collar, put out Masada. Breaking out of the lockup, shoot it out if I have to. Talking native and after, fakes and finances, they political backers. I'm a rebel, I have to. The world made me do it, since I was young I knew it. It's in my blood, through it, yup, yup, yup. Ok. Et j'habite rue de la vie, rue de la joie, rue de l'ennui, rue de l'empire, rue de la foi, et rue du courage, ruelle du boucan, sentier de la rage, avenue rouge sang. Voilà où je marche, où je glisse, où je prends des risques, voilà où je crache, miss, voilà où je pisse. Rue du voisinage en couleur, entre douleur et bonheur, métissage, un mélange de valeurs, où les rums sont au schéma, les rums sont entre eux, rêve de gratter des milliards. Rue de la française des jeux, rue de la lassitude, impasse des vermines, ceux qui ont loupé leurs études finissent les mains dans la résine. Rue du gros bar, rue du Montmartre qui ne lâche pas un radis, ni un sourire, ni un spar. Lui, un peu couche d'arène, rue de la somme, la tête pleine de cauchemars qui a raté sa vie. Et je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos plaines, frère, ça c'est nos rues. Soit on s'aime ou soit on s'aime, soit on s'aide ou on se ken, en fait, mais ça c'est nos rues. Je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos plaines, frère, ça c'est nos rues. Soit on s'aime ou soit on s'aime, soit on s'aide ou on se ken, car tu sais, moi, j'ai

11.50 torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come annunciato poco fa, siamo nuovamente in collegamento con Milano. Questi microfoni dovremmo avere Sid. Ciao, ci senti? Ciao, ciao alla radio, buongiorno a tutti. Ecco, un buongiorno a te. Appunto, durante la mattinata informativa era già stato fatto un collegamento per spiegare quello che stava accadendo questa mattina al Giambellino. Insomma, faccio un breve riepilogo. Continuano, come dire, la questura milanese sta dando seguito alle paranoie securitarie che precedono la mobilitazione No Expo e soprattutto operazioni di repressione preventiva per cercare di scoraggiare la partecipazione. Insomma, settimana scorsa abbiamo visto questi arresti praticamente invocati dal Partito Democratico locale contro compagni e compagne. Questa mattina appunto l'operazione al Giambellino con sgomberi e perquisizioni. Ti chiederei di raccontare appunto brevemente cos'è accaduto e soprattutto quali sono gli aggiornamenti, qual è la situazione attuale. Sì, allora dunque, stamattina intorno tra le 6:30 e le 7 una importante dispiegamento di polizia si è svegliato male il quartiere. Dunque sono state prima perquisite poi sgomberate tre case occupate nelle due vie adiacenti alla base e la base stessa. Le perquisizioni hanno dato tutti esiti negativi. E quello che è avvenuto invece alla base appunto è stata flessibilata la lamiera ed è stata sgomberata. Durante le perquisizioni sono stati fermati alcuni compagni. In realtà non sono stati fermati al momento, cioè l'ultima informazione che abbiamo ci dice che sono stati portati in questura per identificazione. Non sappiamo se questa loro situazione sia mutata e si muterà. Si tratta di compagni principalmente che sono di fuori. E quindi bisogna vedere anche da questo punto di vista come decidono di comportarsi. Noi interpretiamo questo gesto di oggi come l'inizio effettivo delle 5 giornate di Milano, che a questo punto diventano 6. Subito a dire che per quanto ovviamente il risveglio è stato abbastanza traumatico questa mattina, siamo tutti scoraggiati, ci aspettavamo, avevamo messo in conto possibilità del genere, come d'altra parte sia Torino, Cremona e anche da diverse altre parti d'Italia abbiamo letto in questo modo i vari attacchi repressivi, le varie misure eccetera, come appunto veniva detto, cioè come un tentativo di fare paura, di impaurire, di intimidire i compagni e le compagne a partecipare, a essere determinati, a spendersi, a essere tutti orientati all'attacco e all'offensiva nei prossimi giorni su questa città per l'inaugurazione di Expo il 1° maggio. E ovviamente costringere i compagni alla difensiva, a una retroguardia nella lotta. Chiaramente noi stiamo cercando di organizzarci per rispondere a questa cosa, anche che la base, lo ricordo per chi non lo sapesse, il luogo è la sede del comitato degli abitanti del Giambellino e del Lorenteggio, il posto in cui, a parte una serie di attività pericolosissime, esercitazioni di black bloc di 5-6 anni, scuole di italiano per stranieri, cene popolari super partecipate, distribuzione di cibo gratuito, alcune delle attività che venivano fatte là dentro, vi dico con certezza, verranno rifatte lì dentro o nei dintorni, poco importa. Appunto è anche il punto di riferimento della lotta contro gli sfratti e gli sgomberi che in tanti quartieri di Milano e anche Giambellino ovviamente ha visto questi mesi una Milano diversa da quella che conoscevamo. Quindi speriamo che la solidarietà che la base riceverà dopo averne elargita tanta in giro per la città sia altrettanta, che sia generosa della città di Milano nei confronti della base e del quartiere. Dunque, niente che dire, questa sera abbiamo convocato un corteo al 7 facendo appello a tutti, a tutti i compagni e le compagne, alla rete No Expo, perché questo attacco è palesemente un attacco contro le mobilitazioni che si terranno nei prossimi giorni, e ovviamente anche a tutti i quartieri solidari e resistenti di questa città. E alle 7 in piazza Tirana ci concentreremo lì, faremo, speriamo, un grande corteo nel quartiere, vediamo come si svilupperà la questione. Al momento sappiamo di 15 compagni in stato appunto di identificazione in questura. Anche qui è molto importante trovare il modo di fare pressioni, perché sappiamo bene è già il 19 ottobre, ci ricordiamo, c'è stato nel caso di compagni stranieri un rimpatrio coatto in occasione per esempio di sgomberi sempre di spazi a Milano in cui ci sono compagni non italiani, hanno tentato dei fogli di via che poi non sono mai andati in porto, erano delle o anche in valle ci ricordiamo insomma di questo, è molto importante mobilitarsi in questo senso qui. Vabbè, sì, assolutamente. Insomma, noi da Torino vi mandiamo ovviamente la nostra solidarietà, rilanciamo l'appuntamento che ricordavi per questa sera e niente, possiamo dirci fin d'ora insomma che questi tentativi di intimidazione andranno a vuoto e che il 1° maggio saremo tantissimi tantissime, quindi niente, non possiamo che appunto rilanciare sulle giornate milanesi ormai alle porte. Niente, se ci fossero aggiornamenti ovviamente non esitate a contattarci, li diamo volentieri anche da qui, e per il resto niente, un in bocca al lupo per tutto. Va bene, grazie mille, grazie per il sostegno, a presto. A presto, ciao. Allora, questo insomma quello che sta accadendo questa mattina a Milano, appunto la situazione ancora in divenire, soprattutto per quanto riguarda il fermo di questi compagni arrivati da fuori per la mobilitazione. Insomma, ci auguriamo un loro rilascio al più presto, ma appunto rimaniamo sintonizzati per eventuali aggiornamenti. Allora mi ricollego a quanto diceva Sid sulla mobilitazione No Expo ormai alle porte, e ne approfitto per ricordare i vari appuntamenti. Insomma, la mobilitazione si aprirà già giovedì con il corteo degli studenti medi che attraverserà le strade di Milano e che inizierà un po' a scaldare i motori per quella che poi sarà la giornata centrale di venerdì 1° maggio con la May Day No Expo. Anche da Torino ci si sta organizzando ovviamente per poter raggiungere tutti assieme il corteo di Milano del 1° maggio per insomma gli studenti e le studentesse che vogliono essere a Milano già nella giornata di giovedì, appunto per il corteo studentesco. Si stanno organizzando dei pullman al costo di 12 euro. Il numero di telefono a cui rivolgersi è 366 1389 292. Trovate anche l'evento sulla pagina del collettivo studenti auto-organizzati, appunto con tutti i riferimenti. Per chi invece vuole muoversi il 1° maggio, ricordo che da Torino è stato lanciato l'appuntamento per lo spezzone sociale alle 9 in Piazza Vittorio per partecipare anche alla piazza torinese del 1° maggio, e poi da lì ci si muoverà direttamente in direzione di Milano. Anche in questo caso ci sono dei pullman organizzati. La partenza sarà intorno alle 12 da Piazza della Repubblica. Il costo è di 15 euro o 10 per gli studenti. Per tutte le informazioni del caso e per prenotare dovete chiamare il numero 392 1891 329. Comunque adesso segno anche tutti i contatti sull'agenda della radio, di modo che li si possa ricordare di qui ai prossimi giorni. Anche per questo c'è l'evento Facebook di riferimento sulla pagina del centro sociale a Scatassuna, mentre per chi parte dalla Valle di Susa ci sono pullman in partenza, anche da lì trovate tutti i riferimenti su notav.info. Quindi appunto l'invito è a prenotarsi, organizzarsi per essere tutti assieme a Milano il primo maggio. Adesso faccio ancora una pausa musicale, poi ci avviamo verso l'ultima parte della puntata con aggiornamenti sulla questione dell'amianto a Palazzo Nuovo. Hurricane been incarcerated all of his life. Started out of life 12, trapped in the belly of hell, doing to a man inside of a cell. Yo, anger just swell up at an early age that developed. Hot headed, now it ain't shit y'all can tell him. They said he's on the road to become a felon, but instead he swung blows that a spit of melon. He did his thing and was the king of the ring, undisputed. Started making noise, but they tried to mute it. They put him through it for him to make the system look stupid. They'd rather look you in the face and shoot it. Leave your spot looted, or leave your whole life blank, future than caught. When you scream, I didn't do it, with sweat leaking from the outline of your silhouette. Don't understand the point that you at, or how the hell you came to the flashback. The images of that night out in Patterson, they pulled him over heading home from a gathering. And when they told him to charge, it kind of baffled him. Murdering the first of the champ, we on that forever. Imagine you locked down forever. Did y'all stand a weather? Could you hold it together? Tell me that you know the pain. Imagine if your life was like a hurricane forever. Imagine you locked down forever. The doors stand a weather. You built for that weather. Yeah, you know what I'm saying? Got all I'm saying. What you believe in? Nobody knows the trouble scene. This flick left me wondering. What can become of kings? A young kid, summer dream deferred. Incident occurred, freedom blurred. A freedom that would only be retrieved again in words later on. The cops, y'all know what they be on. A nigga's life is like a field that they play upon. Away and gone from natural life, but so he had to fight learning himself. Sleep days, stay up half the night amongst dead men walking. He got afterlife exercising, developing his knack to write. Never leaving his cell in this world, he trapped himself. What he loved on the outside world detached himself. You know the cards blacks get dealt by the system. He drew a picture of freedom with many dimensions. This picture proved to be bigger than black and white. A young soul named Lazara brought him back to life. It's amazing to a man what a book can do, and how certain books seem to look for you. This is the story of a champion's fall and rise. The story left me wiping my eyes. Imagine you locked down forever. Did you stand or whatever? Did you hold it together? Tell me that you know the pain. Yeah. Imagine if your life was like a hurricane forever. However, you're locked down forever. Could you stand or whatever? Yeah, yeah. I can't even explain the pain. Just imagine if your life was like a hurricane. Yes, I am the inescapable, the irresistible, the unnegotiable, the unchallenged. I am time. I stole the measurements, control the elements. I hold the evidence, I tell the story. I am time. I know no prejudice, I bear no sentiment for wealth or settlements. I move forward. I am time. You can't recover me, conceal or smuggle me, retreat or run from me, crawl up or under me. You can't do much for me besides serve. Well, I have good dividends returned to you. Or attempt to kill me off and have me murder you. Many have wasted me, but now they are facing me. Treated me unfaithfully and now endure me painfully. Plaintively, I wait to see what history will shake to be. Who souls will never die inside the sake of me. Angels strive to face for me. Keep a full account of all the names for me and make a special mark for hurricane. Who's on the case forever? Imagine you locked down forever. Could you stand a weather? Could you hold it together? I can't even explain the pain. Imagine if your life was like a hurricane forever. Imagine you locked down forever, ever, ever. Could you hold it together? Yeah, can't explain the pain with words. Yeah, I'm saying, so imagine if your life was like a hurricane. The crowd clapped and the heavens gave birth to a storm. God placed it in a man on a day he was born. Convicted minutes after, a true natural disaster. closet. I'm out in South Water, like torrential rain. And the ring, no opponent escaped unscathed. You can't believe the world we live in's unjust. All I see is more proof, there's no place for us. They had my man caught or locked in a cage, like an animal. Driving to the point where the mind works mechanical and works by remote control. It was done to all of us. They tap directly into our soul. Either it's Sing Sing or it's bars around your mind. There's nowhere to run, nowhere to hide. In a 6x6, a guilty man cries for repentance and losses with innocence. Same story, same fog, a different time. Cyclical reaction from the prisoners of the blind. Trying to fight time, it's a battle with the mind. Waiting for redemption, surviving in the bind. Same story, same fog, a different time. Cyclical reaction from the prisoners of the blind. Trying to fight time, it's a battle with the mind. Waiting for redemption, surviving in the bind. Like a hurricane forever. Imagine behind walls forever. Could you stand the weather? You built for that. You cut for that. Don't tell me that you know the pain. The life was like a hurricane. Yeah. This speech is my recital. I think it's very vital to rock a rhyme. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. That's right, on time. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. Tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. Vento lo tempesterei, io fossi acqua io l'annegherei, io fossi Dio manderei lo in profondo. Sarò fuoco, la lava sulla vita che ti porta la tempesta di ogni anima che mi urla in testa. Sarò piombo, sangue in mezzo al fango, che infetta la tua vita e sporca il tuo vestito bianco. Sarò il pianto a cui segue il coraggio di chi lotta per se stesso e si rialza da un presagio. Sarò il lampo solitario che illumina il cielo e spegne il cuore di ogni merda che accende il tuo stereo. Ho guardato questa Italia senza presunzione, quando ho messo in piedi strade fuori da questa nazione. In testa con un'ambizione, farsi rispettare, senza nascondere gli errori come fa un maiale. Saper distinguere prima di scegliere, restare vigile. Vivere o essere non è mai semplice. Complice l'istruzione nelle scuole per una generazione, elevata per un posto in cassa integrazione. Uno su cento per un piatto che non basta. Chi non paga poi s'ammazza e non c'è soldi per la cassa. La massa segue il pastore che detta loro il copione. La legge scritta col sangue della popolazione. Restiamo in bilico sul capo, in equilibrio sopra il ghiaccio tra la mafia e lo Stato. Lo Stato di fatto è che non cambierà un cazzo se hai raccolto quel sasso. Ma la paura saprà mettere il freno al tuo braccio. Sarò fuoco, lava sulla vetta che ti porta. Allora 12:11 torniamo in diretta con Parole Ribelli, diamo spazio all'ultimo approfondimento per la giornata di quest'oggi, diamo spazio appunto alla vicenda dell'amianto a Palazzo Nuovo di cui abbiamo già parlato nella puntata della settimana scorsa. Nel frattempo ci sono stati diversi avvenimenti, non solo perché ieri le elezioni che erano state sospese per una settimana sono riprese con gli studenti che sono stati smistati per varie sedi, ma anche e soprattutto per quel che ci interessa, perché ci sono stati diversi appuntamenti e forme di mobilitazione negli ultimi giorni. Ma di tutto questo parliamo con Mattia, che dovrebbe essere a questi microfoni. Ciao Mattia. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Fra. Buongiorno a te, hai voglia appunto di raccontarci un po' qual è lo stato dell'arte, soprattutto cos'è accaduto negli ultimi giorni, a partire dal presidio che c'è stato mercoledì pomeriggio sotto il rettorato, che è stato insomma violentemente caricato e che ha segnato anche un po' un cambio di passo rispetto a quelle che erano state le promesse, l'atteggiamento del rettore Ajani, e poi insomma all'assemblea di venerdì, al flash mob di ieri mattina sotto Palazzo Nuovo. Assolutamente sì, e ti ringrazio dello spazio. Allora, come anticipavi tu, mercoledì scorso, diciamo che sotto il rettorato ci sono state delle violente cariche da parte della polizia. Perché ci sono state queste cariche? Beh, semplicemente perché in quel giorno ci doveva essere una giornata no expo organizzata dal collettivo universitario autonomo, e doveva essere naturalmente a Palazzo Nuovo, ma come tutti sappiamo Palazzo Nuovo era chiuso da una settimana, o meglio da 9 giorni, per la problematica appunto dell'amianto. Quindi da un lato appunto c'era la routine universitaria, che comunque è fatta di didattica, ma è fatta anche di socialità, in questo caso la nostra festa. Dall'altro lato c'era il problema che la sede universitaria principale Palazzo Nuovo era chiusa. A questo riguardo quindi abbiamo pensato che il rettorato, è come posto vicino rispetto a Palazzo Nuovo, è come posto dell'università, era un luogo congruo appunto per fare la nostra iniziativa. Ebbene, lì sotto abbiamo trovato un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, penso che stiamo parlando di più di 9 camionette, compresi 4-5 mammut, che sarebbero appunto quei veicoli con le grate di ferro. Comunque sembrava un allestimento, una gestione di piazza, oserei dire, veramente da G8, oppure o meglio da grandi eventi. Comunque sia, gli studenti appunto chiedevano di incontrare il rettore. Naturalmente il rettore si era trincerato nel suo studio, e quando, nel momento in cui appunto avevamo adocchiato che il rettore era uscito dal rettorato, abbiamo cercato di andare avanti per chiedere spiegazioni, ma abbiamo trovato una risposta molto, molto violenta appunto da parte della polizia. Bene, comunque sia, a questo evento ne sono seguiti altri, altri eventi positivi, nella misura in cui, se nella prima parte della questione amianto la risposta da parte degli studenti era stata diciamo sottotono, da mercoledì e soprattutto con l'assemblea successiva del venerdì si è cercato di creare appunto una sorta di piccola mobilitazione, di mettere dei punti fermi. Quindi venerdì pomeriggio, dopo l'incontro in rettorato della mattina del tavolo tecnico, dove comunque il rettore sembrava molto impreparato nella tempistica e proprio negli argomenti, a questo riguardo penso che Palazzo Nuovo riaprirà per settembre-ottobre, a quanto abbiamo capito. Comunque è seguita questa assemblea molto interessante, dove ha visto la partecipazione di diversi studenti, e in questa assemblea sostanzialmente si è discusso su una piattaforma di rivendicazione base, dove posso riassumerla in 3-4 punti. Da un lato si chiede la bonifica subito, naturalmente, dall'altro lato la restituzione della seconda rata, perché ovviamente a fronte di questi disservizi ci domandiamo il perché dobbiamo pagare la seconda rata. In terzo luogo abbiamo chiesto agevolazione sui trasporti, anche perché nella nuova dislocazione delle aule, che rimangono comunque in centro, però sono mediamente distanti l'una dall'altra, comunque sia molte volte noi dobbiamo prendere il pullman, e quindi a questo riguardo naturalmente abbiamo chiesto anche un abbassamento dei prezzi sui pullman. Naturalmente c'è tutta in ballo una questione che non è mai da dimenticare, che è quella la questione appunto proprio della salute, anche perché nessuno di noi ha la garanzia che fra 10 anni chissà cosa ci può succedere, chissà cosa ci può spuntare, perché come abbiamo ribadito sempre, almeno personalmente in questi 2 o 3 anni che ho vissuto Palazzo Nuovo, proprio a settembre è capitato che gli operai facevano dei lavori nelle nostre aule. Quindi un poco così. A quell'assemblea è seguito un altro appuntamento, che è stato il flash mob di ieri mattina, che onestamente, nonostante la pioggia, c'è stata una partecipazione, naturalmente una partecipazione ce la mettiamo in relazione agli studenti di Palazzo Nuovo, non c'era tantissima gente, però secondo me è stato un ottimo punto di partenza, diciamo che c'era una presenza comunque sia secondo me massificabile negli appuntamenti futuri. E quindi quali saranno gli appuntamenti futuri? A questo riguardo saranno domani mattina alle 9 l'assemblea dei lavoratori e dei tecnici dell'università, a cui parteciperanno anche gli studenti, mentre nel pomeriggio, se non erro alle 15.30 oppure alle 17, ci sarà invece l'assemblea, la seconda diciamo assemblea degli studenti, dove da lì molto probabilmente si rilancerà per portare quella sorta di piattaforma che abbiamo concepito venerdì scorso, per portarla al rettore. Quindi scusate la lunghezza, questo era un breve report di quello che è successo in questi giorni. Perfetto, grazie Mattia, appunto mi sembra centrato bene tutti i punti, sia per quanto riguarda la mobilitazione sia soprattutto per le richieste che sono state portate in questi giorni, e sottolineavi anche insomma in maniera positiva un po' la voglia di messa in gioco da parte di studenti. Sicuramente insomma gli appuntamenti che abbiamo avuto di fronte presentavano ancora numeri piuttosto piccoli, appunto in relazione al numero di persone che sono toccate da questa situazione, ma insomma non dobbiamo anche ignorare che arriviamo da una serie di anni particolarmente di stanca dopo le grandi mobilitazioni studentesche, esatto. Che sicuramente in questo momento in molti studenti prevale anche un po' la preoccupazione per appunto per la propria carriera accademica, per il poter dare l'esame, e seguire le lezioni, quindi qualche genuino insomma tentativo di mobilitazione che nasce appunto da studenti così e che circola un po' sul passaparola non può che essere un segnale positivo, e speriamo che insomma adesso che la situazione delle lezioni seppur caotica è ripresa, magari ci sia spazio insomma per costruire qualcosa di più grosso. Sì, assolutamente. Infatti, proprio come dicevi tu, penso, cioè, guardando anche un po' i commenti sui social, ma anche, che ne so, nei pullman, quando capita di andare a lezione, diciamo che ieri sono iniziate le lezioni con, fra virgolette, nelle nuove aule, e comunque c'erano commenti degli studenti fra virgolette molto infastiditi, per la questione di avere c'era chi si ritrovava con due lezioni una dopo l'altra in posti differenti, lontani a un quarto d'ora, 20 minuti l'una dall'altra, quindi questo era già un motivo comunque di fastidio, piuttosto che l'imbarazzo di professori che trovavano aule, fra virgolette, occupate da colleghi, da lezione dei colleghi, quindi anche questo è tutto, cioè secondo me sta comunque provocando dei fastidi agli studenti e naturalmente chi vuole smobilitare, cercare di trasformare il fastidio in consapevolezza è un buon dato e penso che l'assemblea di mercoledì vada in questo senso, naturalmente sembra che un po' il vento sta cambiando e comunque gli studenti, noi studenti tra colleghi confrontandoci sembra che vogliamo darci anche un po' una mossa rispetto a questo, quindi chiederemo al rettore tutto quello che ci spetta, quando sarà, mercoledì decideremo quando sarà, però ci siamo. Bene, ottimo, sì, diciamo che sicuramente se la situazione di Palazzo Nuovo già normalmente non brilla, insomma, per la sua organizzazione, in questo caso il caos è abbastanza totale, ma appunto speriamo che un po' di incazzatura serpeggi tra gli studenti, quindi rilancio appunto l'appuntamento che ricordavi di domani pomeriggio alle 15 davanti a Palazzo Nuovo per l'assemblea in cui aggiornarsi un po' rispetto alle richieste che sono state avanzate e anche magari portarle un po' più vicine alle orecchie del rettore. Mattia, io ti ringrazio e niente, ci riaggiorneremo sicuramente anche da questi microfoni. Ok, come sempre grazie per lo spazio e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Parole di Pelli e di Radio Blackout, quindi buona giornata. Grazie, buona giornata a te, ciao. Buona giornata. E allora appunto questo per quel che riguarda Palazzo Nuovo, adesso faccio una breve pausa musicale, poi vado a ricordare non solo l'appuntamento dell'assemblea di domani che già ricordava Mattia, ma anche altri eventi nei dintorni. Sarò fuoco, lava sulla vetta che ti porta la tempesta di ogni anima che mi urla in testa. Sarò piombo, sangue in mezzo al fango, che infetta la tua vita e sporca il tuo vestito bianco. Sarò il pianto, a cui segue il coraggio di chi lotta per se stesso e si rialza da un pestaggio. Sarò il lampo solitario che illumina il cielo e spegne il cuore di ogni merda che accende il tuo stereo. Io sarò quello che sono sempre stato, da sempre marginato, vago dove tutto quanto rigirato, mondo sotto sopra, sotto botta, quanta strada ho macinato. Un fio della mignotta, non puoi tenerlo incatenato. Il capo mai chinato, occhi rossi, pantaloni sporchi, vado a spasso condannato. Dead man walk. I colpi che ho incassato mi hanno reso enorme. Ho sopportato il peso ed ho pagato le mie colpe. Fino alla morte sentirei sta voce per le strade che risuona. Il canto disperato di ogni stronzo di Roma. Sarò il morso velenoso di un serpente Black Mamba. Sarò l'arma se qua non cambia niente. Sarò la rabbia della gente che arranca, il ferro sulla fronte di uno stronzo che sbianca, l'aria calda che riscalda questi inverni. Sarò questo pure quando sarò carne per i vermi. Sarò fuoco, lava sulla vetta che ti porta la tempesta di ogni anima che mi urla in testa. Sarò piombo, sangue in mezzo al fango, che infetta la tua vita e sporca il tuo vestito. A cui segue il coraggio di chi lotta per se stesso e si rialza da un pestaggio. Sarò il lampo solitario che illumina il cielo e spegne il cuore di ogni merda che accende il tuo stereo. Ho conosciuto un secondo e mi sono saltato, sì. Se non l'avessi fatto io sarei morto affogato, cioè. Ti ho conosciuto e delle arie mi son dato. È stato perché tu mi hai lasciato senza fiato. Ora col cuore spento, lontano da sti umani in cui non mi saliva più manco l'effetto dell'affetto, no. Fatti chiari penso, sì. Solo tu mi radi nel petto a 90 gradi, cuore ad angolo retto. Amore e rispetto è più di quello che mi meriti. Alla fine dei conti sto all'inizio dei debiti. Chiediti anche stasera, sì. Se è vita vera, vera. terra. Sin dubbio anche a sta cena se chiedere vino venia. Cose d'oro perse, versete banali uguali a chi ha messo rubini sui binari. Quali sono i miei ideali, che anche se ti addormenti con le lenti, i tuoi sogni nei cassetti non li vedrai chiari. It's a hard knock life, then you pass away. Feel a fake love or hate. My life got no better. It's a hard knock life. Life, then you pass away. Feel a fake love. L'ho scritto sulla pelle con due lettere spezzate da un diamante. Insieme a te vorrei vederne tante, tutte, perché tu sei la notte fatta a pezzi dall'aurora, sei la vita oltre la morte, la coperta che mi sfiora quando il freddo mi divora. Siamo anime apolidi che ora c'hanno una dimora, colora il vento, ferma il tempo, crea le sfumature, prenditi cura del mio viso e lascerò che il tuo sorriso uccida le paure. Io ti ho conosciuta dentro il tuo cappotto grigio, gli occhi grandi come un pomeriggio a metà agosto, poi ho stretto la tua mano, sono andato via lontano e adesso che sei l'alba e il mio tramonto ci scherziamo. Però prima di ogni mattina, amore mio, quando il mondo suona il suo silenzio, noi facciamo rime e non c'è Dio, ma bocche assuefatte dalla caffeina che hanno scelto di baciarsi per svegliarsi dall'oblio. L'ho cercato dentro tutte le canzoni sull'asse terrestre, una che parlasse di noi, che ci conoscesse, ancora nel mare delle mie insicurezze, barca che riporta a riva, salve le certezze, l'infinito allo stesso riflesso delle tue fattezze. Noi siamo in equilibrio sempre tra sesso e carezze, un libro fatto tutto di cose, giornate intense, e a scriverlo saremo io e te, sempre e per sempre. It's a hard knock life, then you pass away. Feel a fake love or hate. My life got no better. It's a hard knock life. Life, then you pass away. Feel a fake love or hate. Sarà che penso in modo astratto, ma la retta via mi sembra un pacco, sì. Alla fine è la prima che scarto, non tengo il mio cervello intatto, no. Quando parlo salto di pollo in frasca tipo parco. Vorrei scappare ed andare di casa ora. Ma poi non riesco a sparire come Casanova. Il dubbio mi divora, sì. Serve fuggire ora, tagliare la corda, rimanere coi nodi in gola. Partire da nulla è come guidare senza sterzo, e non è la certezza che non ci sarà una curva. Puoi una giungla, ma non ti tirare indietro. Se vuoi lavare la coscienza non puoi mollare la spugna, no. Zero fame, troppe bare, la pasta non cala. Mi muovo in maniera strana, passo di guana. Impara come che un quintale di ash del Ghana. E passa la dogana, la Vasco de Gama. It's a hard knock life, then you pass away. Feel a fake love or hate. My life got no better. It's a hard knock life. Life, then you pass away. Feel a fake love or hate. Allora 12:28, mentre ci avviamo verso la conclusione di Parole ai Ribelli, ricordo ancora qualche appuntamento, appunto non solo quello dell'assemblea di domani alle 15 a Palazzo Nuovo, ma ricordo che anche la biblioteca autogestita del terzo piano, nonostante al momento sia senza sede perché appunto è stata chiusa assieme al resto di Palazzo Nuovo, sta proseguendo le sue attività, quindi insomma la chiusura non ferma i consueti appuntamenti, tra cui quello settimanale con il Cineforum. E quindi per questa settimana l'appuntamento è per domani sera alle ore 21, la proiezione verrà fatta davanti a Palazzo Nuovo, appunto per continuare anche a porre una serie di questioni di responsabilità rispetto a questa chiusura, e la proiezione di questa settimana sarà dedicata al film Anime Nere, che è uscito pochi mesi fa, regia di Francesco Munzi, che ha ricevuto insomma diverse critiche positive, quindi insomma l'invito appunto a partecipare. L'appuntamento è alle 21 davanti a Palazzo Nuovo, appunto la proiezione si terrà all'aperto, domani il tempo dovrebbe essere clemente, quindi niente, partecipate numerosi. Radio Rabbia, Radio Rabbia, questa è Radio Rabbia. 12. Cortone, Catanzaro, Calabria. Mi metto a scrivere al cielo poesie mentre la pioggia di settembre scende giù dal mio giubbotto e spazza via le mie energie. Ora è sempre dalla stessa postazione, un occhio verso il sole, l'altro sulle anomalie, le gambe nello stesso dove, la testa nell'altrove, i polsi dentro le mangrovie. Informazione, la mia città non muore, sembra in coma silente, la mia nazione è quella dei chi già consente e abbraccia concerti, chiude gli occhi e fa il make up. Ehi pa, lo sai ma è solo grazie a voi se vivo pure col niente. Adesso c'è lei qua e raccia, mi manda batterie su cui distendo a notte dure il mio presente. Nel momento in cui nessuno sente ma qualcuno ascolta, non mi resta che sfondarla con la forza questa porta. Entro dentro la tua casa con il suono di una volta, la mia radio suona mo, trasmette rabbia da mandare in onda. Pazzi depressi e chiama numeri impressi sui cessi degli autogrill, copia e incolla i riflessi, sorride per cortesia, brucia colpe complessi in un paio di Ave Maria. Io dal giorno in cui resti l'erio di occhi allarmati, mo chi sono i sommersi, mo chi sono i salvati, vedo cuori ammalati con chiazze di nostalgia messi a nudo dallo screen di una radiografia. Nelle piazze e caduti il vero attira le folle, il manganello con forza ora colpisce le nuche, il verbo atterra sul suolo come foglie caduche, ideali minacciati da un ferro di polizia. E da Giove a Nettuno Dio si perde nel fumo dei mercanti devoti al consumo, non ci guarda in faccia nessuno, il mondo balla lì indietro perché l'unico flash mob globale qui è il moonwalk. Allora, quando sono le 12:32, prima di concludere, vado come di consueto a ricordare gli appuntamenti della settimana. Partiamo da questa sera, appuntamento settimanale con la cena benefit all'asilo occupato. Questa sera cena benefit lotta contro il CIE, l'appuntamento è dalle 20:30 in via Alessandria 12. Per quanto riguarda la giornata di domani, al Mezcal Squat, cena bella vita, porta quello che vuoi trovare, come sempre appuntamento al parco della Certosa di Collegno. E sempre per la giornata di domani, due appuntamenti già ricordati, col Cineforum del terzo piano alle ore 21 davanti a Palazzo Nuovo e con l'assemblea sulla questione amianto alle ore 15 sempre davanti a Palazzo Nuovo. Arriviamo direttamente al fine settimana, la giornata del 1° maggio ovviamente si concentrerà appunto sulle mobilitazioni, il doppio appuntamento è a Torino per il consueto spezzone sociale all'interno del corteo del 1° maggio alle ore 9 in Piazza Vittorio. Di lì ci si sposterà direttamente verso la mobilitazione No Expo di Milano. I pullman da Torino saranno in partenza intorno a mezzogiorno da Piazza della Repubblica. Su infoauto.org trovate tutti i riferimenti per le partenze dalle varie città alla volta di Milano. E sempre per venerdì 1° maggio, per chi invece rimane a Torino, torna l'appuntamento con i giorni irreali ai giardini reali di Torino. Dalle ore 13 ci saranno bar, griglia e musica benefit inguaiati con la legge. Nel pomeriggio distro, mostre, autoproduzione, DJ set, afternoon in the house con Lucia P e Gigio H. Briso. Dall'aperitivo DJ set, dal Latin jazz all'elettro swing con Bobo Jazz, Baron One e Beto. Ovviamente in caso di pioggia ci si sposta invece al Parco d'Ora di Corso Mortara. Per quanto riguarda invece la giornata di sabato, diversi gli appuntamenti qui alla Blackout House di Via Cecchi dalle ore 22 per anticipare la serata del giorno successivo, un live oltraggioso con Genital Worst, Lydak, Sadk e Wurst, Noise Industrial e musiche per masturbarsi le orecchie, parole testuali, quindi insomma attrezzatevi in tal senso. L'appuntamento dalle 22 qui in Via Cecchi 21/A, ovviamente la serata sarà benefit per le libere frequenze di Radio Blackout. Al centro sociale Murazzi invece dalle 22:30, sempre sabato 2 maggio, concerto indie rock con i Fasti, che presenteranno il loro ultimo album Palestre, saranno affiancati sul palco dai Mest e dai Gloom. L'ingresso sarà a offerta libera. Sempre sabato 2 maggio invece a Pinerolo dalle ore 19 al circolo Stranamore, la libertà secondo gli Zapatisti, cena messicana, racconti dal, scusate, è scritto in un modo incomprensibile, dall'Esquelito e commemorazione di non so, ci sono dei nomi scritti in maniera assolutamente incomprensibile. Comunque, serata a tema messicana sulla lotta zapatista dalle ore 19 al circolo Stranamore di Pinerolo. Arriviamo alla giornata di domenica 3 maggio, nuovo appuntamento qui nella Blackout House. Sarà il turno della presentazione del nuovo e ultimo libro di Diana Torres, anche nota come la porno terrorista, che sarà appunto qui ospite per presentare il suo ultimo libro, Fica Potens. L'appuntamento è alle ore 21. Mentre sempre domenica al Barocchio Squat, Cinepizza Bella Vita, porta gli ingredienti che vuoi trovare, e dalle ore 23 l'appuntamento col cinema. Sempre domenica, per darvi insomma tutte le scelte del caso, al Paso Occupato ci sarà un concerto live con Total Chaos e West Dead, a seguire DJ Set. Il tutto sarà insomma ricavato, andrà a sostegno delle lotte contro CIE, carcere e sfratti a Torino. Questo più o meno è quanto, abbiamo fatto le 12:36, quindi anche per questa settimana Parole Ribelli vi saluta, io vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 10:45 alle 12:45, l'invito a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, tra pochi minuti andrà in onda il GR, a seguire Toshi e Simone ci torneranno in onda con Cattivi Pensieri, quindi un saluto a tutti e a tutte, un augurio di buona giornata, ci risentiamo martedì prossimo.